известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Thank you so much. Good afternoon. I am honored to be in the timeless city of Cairo and to be hosted by two remarkable institutions. For over 1,000 years, Wuzhou Azhar has stood as a beacon of Islamic learning. And for over a century, Cairo University has been a source of Egypt's advancement. Queste sono le parole di apertura del discorso, che è diventato quasi una leggenda nel giro di un paio di settimane prima che venisse pronunciato, e direi addirittura nelle 2 o 3 ore che hanno seguito il suo pronunciamento alla Università del Cairo. Barack Obama ha parlato per 55 minuti davanti a 2500 persone, interrotto 33 volte dagli applausi, per formulare qualcosa che solo un anno fa, se mi passate l'ipotesi, sarebbe stato impensabile. Ha parlato di un nuovo inizio, di cercare un nuovo inizio nel tentativo di ritrovare un terreno comune, quel terreno comune che l'Occidente e l'Islam hanno a lungo avuto condiviso, con una bipolarità di sforzi, di capacità, con uno scambio ininterrotto, ma che poi negli ultimi decenni, a causa di alcune aree di crisi, di molte incomprensioni, di un crescente sospetto, si è come andato disciogliendo, fino a generare a tutti gli effetti una ostilità che ha portato a guerre, a reciproca sfiducia, quando non a odio, o quando addirittura a degli episodi di una drammaticità indimenticabile, come tanti attentati che hanno punteggiato l'ultimo decennio, e al tempo stesso tante guerre che hanno provato a rispondere seguendo una logica che forse poteva non essere l'unica a quegli attentati. Adesso Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti, va all'Università del Cairo e tira una riga rossa sul terreno e prova a dire ricominciamo, prova a dire azzeriamo le problematiche, ma non semplicemente dichiarandolo, ma producendo uno sforzo comune, uno sforzo che ha dei punti, una strada da percorrere, delle responsabilità da coprire, un compito da svolgere per ciascuno, e certamente alla base una grande buona volontà. Io non so se lo scetticismo che a più riprese, soprattutto da noi in territorio, come dire, vecchia Europa, ma soprattutto nella nostra buona Italia, viene espresso nei confronti di iniziative di questo genere, quasi in chiave aprioristica, no? Come dire, ma sì, ma in fondo sono solo parole, in fondo sono solo dei buoni propositi, in fondo è anche molta autopromozione, se non propaganda. Io non so se questo scetticismo a oltranza, che rischia poi un po' di sbarcare nella spocchiosità, insomma, possa essere portata avanti come linea di approccio e di distinguo a quello che sta facendo il Presidente degli Stati Uniti in nome della nazione, forse, senza che nessuno gliel'abbia chiesto, in nome del mondo. A me invece piacerebbe pensare in nome del buon senso, perché in ciò che ha detto oggi al Cairo Barack Obama mi sembra ci sia soprattutto molto buon senso, fatto di semplicità, di un certo sano pragmatismo americano, e poi, ripeto, di una chiamata a responsabilità collettiva, che è quello che peraltro Barack Obama ha fatto da sempre, da quando percorre il suo cammino politico di vertice. Abbiamo molti ospiti che però da adesso in poi prenderanno piuttosto il mio posto nel commentare le parole di Obama in questo lungo, articolato, interessantissimo discorso. Ma prima di introdurre il primo dei nostri ospiti, che poi è stato un vero e proprio testimone oculare, riascoltiamo ancora un brevissimo estratto dalle parole del Presidente. So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, those who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. And this cycle of suspicion, Questo è un po' il passaggio programmatico del discorso di Obama. Dice: da tempo le nostre relazioni si sono definite in base alle loro differenze. Abbiamo rafforzato quelli che sostengono l'odio anziché la pace, che promuovono il conflitto piuttosto che la cooperazione, quella cooperazione che può portare i nostri popoli a raggiungere la giustizia e la prosperità. Il ciclo del sospetto e della discordia deve finire. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, era presente al discorso, ne ha assaporato, oltre alle parole, anche l'atmosfera e la ricezione che gli è stato riservato da parte del pubblico. Buon pomeriggio Mario, grazie per essere con noi. Mi sa che c'è una linea caduta, se ho ben sentito il segnale telefonico. Cerchiamo di ristabilire subito il contatto. Intanto vi do nota di qualche reazione. Viene considerato un trionfo dalla stampa e dai media arabi il discorso di Barack Obama. Nei primi commenti sono molto attesi naturalmente anche quelli israeliani. Gli esponenti a destra israeliana, tra cui un ministro, hanno criticato il discorso di Obama, nonostante Netanyahu avesse vietato in un primo momento di rilasciare dichiarazioni, cercando di produrre una dichiarazione congiunta. Ma dovremmo aver ristabilito il contatto con Mario Platero. Mario, buon pomeriggio, grazie di essere con noi. E allora abbiamo provato a introdurre l'evento, ma naturalmente a te la parola, daccene un po' la misura da vicino e anche l'ambientazione per come è stato recepito e le prime reazioni che hai registrato. Mario. Ma dunque, sì, intanto un'ambientazione straordinariamente, direi, positiva, grandi applausi, grande emozione, soprattutto nei momenti in cui Obama citava passaggi del Corano, passaggi naturalmente sempre positivi, ispirati, passaggi così improntati a quella che è stata la grande storia di civiltà dell'islamismo e del mondo islamico, e che hanno fatto da traino, se vuoi, come lo stesso Presidente ha ricordato, al Rinascimento, all'Illuminismo. Ecco, quando Obama ha reso omaggio alla grandezza passata del mondo islamico, ci sono state davvero delle reazioni di straordinario entusiasmo. Non è un caso che Obama abbia ricordato ovviamente il passato di grandezza dell'islamismo, perché dal suo punto di vista le forze che oggi cercano di tenere indietro l'Islam rispetto al progresso e alla modernità sono delle forze che nulla hanno a che fare con l'Islam, che ha dimostrato in passato di essere perfettamente in grado di essere all'avanguardia e di poter gestire, innovare, inventare e portare libertà e tolleranza. Ecco, questo è un po' il quadro d'insieme. Ogni qualvolta Obama ha toccato la nota dell'importanza, della tolleranza e della grandezza dell'Islam e del Corano, ecco, ci sono stati davvero applausi straordinari, un pubblico misto, c'erano una gran quantità di giovani, c'erano dignitari, c'erano diplomatici, c'erano ovviamente molte persone, abbiamo visto anche alcuni posti vuoti, forse per le misure di sicurezza. Grosso modo mi sembra che ci fossero circa 2000 persone in sala in questa straordinaria aula magna dell'Università del Cairo, dove Barack Obama ha parlato. Ma sul piano politico il suo non è stato soltanto, secondo me almeno, un discorso impostato con una retorica così a buon mercato, come tu stesso accennavi e come sembrava che qualcuno così sospettasse o lo accusasse di voler fare. In realtà, secondo me, Obama con questo discorso ha davvero tracciato uno spartiacque tra il prima e il dopo, e lo ha fatto in modo molto soft, con quell'approccio da soft power che lui privilegia rispetto all'approccio di hard power che invece privilegiava l'amministrazione Bush, ma se vuoi ancora più significativo e forte. Perché? Perché ha dato un messaggio al mondo islamico di apertura, ma ha dato un messaggio anche all'America e a Israele. Tre messaggi dunque contemporaneamente per voltare questa pagina. E il messaggio forte per l'America è che l'America è anche un paese islamico. In America ci sono 7 milioni di musulmani, ci sono 1200 moschee, c'è un deputato, un parlamentare americano che ha giurato sul Corano, e su un Corano che era stato di Thomas Jefferson, preso a prestito dalla sua libreria. Quindi questo messaggio di presenza musulmana islamica forte negli Stati Uniti d'America, ecco, è un messaggio duro per gli Stati Uniti, non so poi come sarà recepito soprattutto negli ambienti del fondamentalismo cristiano, ma è un messaggio che vuole trascinare e portare in avanti. Il messaggio per Israele è stato altrettanto, direi, duro, bisogna uscire dagli insediamenti, Israele resta un amico fraterno da sempre degli Stati Uniti, l'unica democrazia in questa regione, però Israele dovrà fare la sua parte nei confronti del popolo palestinese, dovrà riconoscere uno Stato autonomo e indipendente, dovrà smetterla soprattutto di continuare ad allargare gli insediamenti. Ecco, in questo Obama ha cercato un po' di così rivolgersi a tutti. Terzo messaggio, sempre sul piano della regione, questo se vuoi diretto anche un po' a noi, certo, è quello che alla tradizione così che si è andata affermando prima in America ma poi anche in Europa giudaico-cristiana, da ieri Barack Obama aggiunge una tradizione giudaico-cristiana musulmana. Ecco, certo, sono messaggi, quando saranno analizzati nel dettaglio, che ovviamente faranno molto pensare, faranno molte polemiche secondo me, però sono messaggi importanti per portare il dialogo in avanti e per dimostrare soprattutto la buona fede americana. Bisogna essere inclusivi e se lo si deve essere bisogna esserlo fino in fondo. Sì, sì, io condivido pienamente quello che dici, ma poi francamente l'unica cosa che mi viene da aggiungere è che difficilmente, insomma, nei panni di un presidente degli Stati Uniti e nella rappresentatività che questo compito riveste, si può andare molto oltre, compreso anche il fattore retorico, appunto il rappresentativo stesso, il descrittivo stesso del discorso di Obama, ma si può andare molto oltre quello che Obama ha detto. Mi sembra che con tutta la teoria che inevitabilmente una posizione del genere può rappresentare, insomma, siano successe oggi alcune cose notevoli, non pensi, Mario? Sì, sì, assolutamente, ed è appunto questo, cioè l'America si rende conto, certo, certo, che senza il mondo islamico, senza quel miliardo di musulmani che sono in paesi più o meno grandi, non si potrà compiere fino in fondo il processo di globalizzazione. E per questo Obama ha fatto un discorso straordinariamente articolato, un discorso articolato in 7 punti. Nel primo punto ha affrontato la questione del terrorismo, o meglio, non ha mai parlato di terrorismo, ha sempre parlato di estremismo proprio, certo, certo, per non offendere la sensibilità degli islamici. E poi ha parlato dell'altro, certo, elemento di tensione importante, cioè la relazione tra palestinesi ed israeliani, di cui abbiamo parlato prima, ha parlato di armi nucleari, dell'importanza della democrazia, ha parlato dell'importanza della tolleranza religiosa, dei diritti delle donne e poi dello sviluppo economico e delle opportunità che questo sviluppo economico può portare a tutti. Mi ha colpito molto anche la distinzione che ha fatto parlando di democrazia, e cioè in qualche modo ha risposto a coloro che dicono: beh, ma tu America vuoi la democrazia, poi quando viene eletto Hamas ti lamenti perché non ti piace come sono andate le elezioni. Ebbene, Obama ha risposto a questa obiezione in modo molto chiaro, netto, saggio, direi, affermando che una cosa è la democrazia, una cosa è l'elettrocrazia. Non ha usato proprio questo termine, ma alla base della democrazia ci devono essere principi di istituzioni, di tolleranza, di libertà, di rispetto, certo, della legge, che nel momento in cui chi vince le elezioni poi non li applica o addirittura poggia sul terrorismo, beh, non possiamo parlare di democrazia o di libere elezioni, perché le libere elezioni ci sono quando ci sono i presupposti democratici, i valori di fondo della democrazia, all'interno dei quali poi queste elezioni possono crescere e possono dare i risultati voluti. Quindi un discorso a tutto tondo, chiuso, terminato con proprio un appello alla crescita economica. Ha fatto un riferimento al Giappone e alla Corea del Sud. Erano paesi, la Corea del Sud era un paese che negli anni 60 aveva un'economia delle dimensioni di quella egiziana, eppure oggi la differenza chiaramente è straordinaria. La Corea del Sud è diventata una grande potenza industriale, l'Egitto resta un paese emergente. Quindi l'appello è a guardare in avanti e soprattutto a tenere ben presente e chiaro che l'Islam non è in antitesi alla globalizzazione, alla crescita economica e all'armonizzazione, perché c'è stato un momento in cui l'Islam stesso è stato il simbolo mondiale, globale, se vuoi, in un'altra epoca proprio, certo, di questi valori. Della civiltà del progresso. Grazie, grazie a Mario Plateru, che seguirà peraltro Obama nelle varie tappe di questo interessantissimo e importante viaggio. Sarà anche a Buchenwald nella visita al campo di concentramento che Obama terrà fin da domani, e cercheremo naturalmente di risentire Mario appunto nella puntata di domani. Altri ospiti tra pochissimo. Una triste notizia, tra l'altro, dalle televisioni news americane: sarebbe morto a Bangkok David Carradine, della nota stirpe di attori americani e soprattutto noto e rilanciato in tempi recenti da Quentin Tarantino in Kill Bill, la serie di film avventurosi in cui David Carradine aveva un ruolo centrale. E aveva 73 anni, si trovava in Thailandia per girare un film. Ma torniamo al discorso di Obama, un altro breve estratto. The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms. In Ankara I made clear that America is not. Questo è quello che poco fa citava Mario Plateru come il tocco gentile di Obama, anche nell'argomento più spinoso, il terrorismo, all'inizio delle sette issues che Obama ha toccato nel suo discorso, partendo proprio dalla più rovente. Il terrorismo non ha usato questa parola, ne ha usata un'altra, estremismo violento, che naturalmente non va accettato e va affrontato in tutte le sue forme. Abbiamo ora in linea Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, inviato in Medio Oriente, attualmente a Beirut, in procinto di seguire la tornata elettorale libanese di grande importanza, e credo particolarmente sensibile e attento a questa parte del discorso in cui Obama ha messo in campo la strategia della nuova Casa Bianca nei confronti del terrorismo, modificando non poco l'indirizzo dato da George W. Bush nelle parole che ha appena detto. Nel frattempo cerchiamo di stabilire il contatto con Tramballi. Ha detto ad Ankara, quando ha parlato recentemente in Turchia: io ho detto chiaramente che l'America non è e non sarà mai in guerra con l'Islam. Noi al tempo stesso abbiamo intenzione di confrontarci sempre con tutti gli sforzi possibili con l'estremismo violento che ci minaccia. Ecco Ugo, so che il collegamento è così un po' saltellino, non so come dire, però quello che ha detto Obama sul terrorismo oggi e sui propositi della Casa Bianca, delle tue considerazioni, soprattutto viste dall'osservatorio dove ti trovi adesso, che di questo argomento è per varie, che da questo argomento è toccato, insomma, a diversi livelli. Ugo. Beh, lui dà una nuova definizione del terrorismo, nel senso che, certo, per esempio, quando ha citato abbastanza, in maniera abbastanza estesa, Hamas, e quando ha citato Hezbollah non ha mai usato la parola terrorismo nei confronti di queste due organizzazioni, ha usato la parola violenza, ha parlato di inutilità della violenza, ma non le ha mai definite organizzazioni terroristiche. Questo è uno dei mille fatti nuovi dell'intero discorso di Obama in questa regione. Certo, l'osservatorio libanese, per come lo stai vivendo e assaporando in questi giorni, come può essere connesso a quanto ha detto Obama? Ovvero, ascoltare Obama da Beirut, che sensazioni desta? Beh, dal punto di vista, come dire, tecnico, molto poco, perché in realtà Obama è stato anche molto rispettoso sia delle elezioni libanesi che si svolgeranno domenica, sia delle elezioni iraniane che si svolgeranno la settimana successiva. Cioè, anche il capitolo dedicato al nucleare all'Iran è stato forse il meno denso di tutti gli altri, proprio perché in qualche modo Barack Obama non ha voluto farsi coinvolgere nella campagna elettorale né qui in Libano né in Iran. Il Libano, per quello che è il Libano, cioè il vero Levante, il punto di congiungimento, di congiunzione, a volte soprattutto di scontro fra Occidente e Islam, il Libano è il paese che potrebbe essere l'esempio vivente di questo lungo discorso di Barack Obama, dove cristiani e musulmani sanno vivere in maniera fantastica insieme, poi da ogni tanto invece esplodono in violenze senza limiti. Domenica, il risultato di domenica potrebbe molto probabilmente portare Hezbollah ancora più al governo di quanto, ufficializzare la sua presenza al governo ancora più di quanto non fosse stato fino adesso, quindi rendendo in qualche modo obbligatorio da parte nostra rivedere la posizione riguardo a Hezbollah, ma costringendo in un certo senso anche Hezbollah, presa probabilmente come sarà da doveri di governo e di gestione di un paese, anche probabilmente a moderare le sue posizioni. Ugo, telegraficamente, siamo vicino alle notizie di borsa, un tuo giudizio personale sulla esternazione, sul discorso di Obama, lo ritieni un successo e se sì di che portata? Ma vivendo nel mondo arabo, nel Medio Oriente, tra Israele e mondo arabo da tantissimi anni, e praticamente sono invecchiato nell'attesa che un presidente degli Stati Uniti dicesse le cose che ha detto Barack Obama oggi, certo. A noi stessi e al mondo arabo, all'Islam in generale. Io credo che il discorso sia assolutamente storico. Naturalmente non mi aspetto che il Medio Oriente cambi solo per un discorso. Il discorso è l'avvenimento, la giornata sarebbe ancora più storica se sapessimo che da quest'altra parte del mondo c'è un leader arabo musulmano capace di fare all'Occidente e a se stesso, allo stesso mondo islamico e arabo, lo stesso discorso che ha fatto Barack Obama, ma credo che per il momento ancora non ci sia. Non c'è all'orizzonte, a tuo parere, un personaggio, una personalità di questo genere? Temo di no, però magari il discorso di Barack Obama metterà in moto dei meccanismi virtuosi anche nel mondo arabo. Grazie a Ugo Tramballi che lavorerà in questi giorni sulle elezioni libanesi. Io vi do il numero a cui mandare gli sms, se volete, ne stanno già arrivando di numerosissimi, 349-238-6666. Nel bene o nel male muove le emozioni un personaggio come Obama, e le sue parole mi sembra stanno destando molte reazioni. Now, the second major source of tension that we need to discuss is the situation between Israelis, Palestinians, and the Arab world. America's strong bonds with Israel are well known. This bond is unbreakable. I forti legami dell'America con Israele sono ben conosciuti, questi legami non possono essere rotti, sono basati su una vicinanza, una parentela culturale e storica e il riconoscimento che le aspirazioni per una patria ebrea metta radici, abbia le radici in una storia tragica che non può essere negata. Questa è la seconda issue issue, il secondo tema del discorso di Obama quando si è spostato alle questioni pratiche, non so come dire, dopo le premesse, è quello a cui ha dedicato anche maggior spazio Barack Obama, naturalmente la questione israelo-palestinese. State dedicando molta attenzione anche voi con i vostri messaggi 349-238-6666, che in generale per adesso vertono allo scetticismo quando non alla preoccupazione nei confronti di quanto ha detto Barack Obama, questo facendo una media, poi più tardi cercheremo di leggerne alcuni, ma abbiamo altri due ospiti in contatto telefonico, Maria Grazia Enardu, ricercatrice di storia internazionale a Firenze, Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, ascoltate spesso i nostri microfoni, ascoltate Andrea Mancia, vice direttore di Liberal, attento osservatore delle cose americane. Buon pomeriggio Maria Grazia, buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, siamo già nel vivo del discorso di Obama, stiamo adesso per commentare la parte che è facile presupporre che solleverà più reazioni e più reazioni diversificate. Allora, tanto per andare giù piatti e semplici, fatemi sentire le vostre di reazioni alla presa di posizione, alla proposta che Obama ha pronunciato nei confronti della questione israelo-palestinese. Partiamo da Maria Grazia. A me pare una proposta esposta bene in un discorso che aveva come economia generale tutt'altro, è partita da dati storici e politici incrollabili, cioè la complessa storia di Israele, la sua tragica anche nascita, e ha anche riaffermato che il legame tra Stati Uniti e Israele non è rompibile, unbreakable. Ma proprio perché il legame è forte, credo che il presidente americano lo voglia usare per trascinare Israele verso una nuova politica che, come lui ha detto in un passaggio, è l'unica che possa rendere fermi e stabili gli interessi americani, israeliani e arabi, li ha legati tutti insieme. Andrea, come dire, nei confronti di Israele, come ormai gli osservatori si stanno abituando a notare, è cambiato il tono dell'amministrazione americana, si è alzato, se mi passa l'espressione, il livello dello scontro, diciamo si è alzata la pretesa, che è più equanime, e oggi è stato difficile non notarlo. Muovetevi anche voi, insomma, tanto per succintare il messaggio, non verrà accolto. Che dici, con gran leggerezza? Io ho molte perplessità sulle possibilità di accoglimento da parte di un governo Netanyahu di questa pretesa, come giustamente l'hai chiamata. Sinceramente è impossibile non notare il cambio non solo di tono, ma anche proprio di strategia nei confronti dell'alleato più fedele che gli Stati Uniti hanno nella regione medio orientale, e non lo so, a me preoccupa... Senti, se ti dico che un sondaggio appena uscito dice che il 55% degli israeliani intervistati da un quotidiano afferma esplicitamente che Obama parteggia per i palestinesi, che effetto ti fa questa? Credo che il sondaggio sia sbagliato per difetto, in linea di massima, e sinceramente, probabilmente se vivessi in Israele, nella situazione in cui si trovano a vivere gli abitanti di Israele da molti, troppi anni, probabilmente avrei, diciamo, sarei stato con la maggioranza se fossi stato interpellato su questo sondaggio. Comunque il cambio di tono è innegabile, insomma, cioè gli Stati Uniti... Cos'è che non approvi, non ti è piaciuto, non condividi nel quadro, diciamo così, disegnato da Obama riguardo? L'equidistanza fra le due posizioni, cioè io resto convinto che fra chi si difende e chi vuole spazzar via un altro popolo dalla faccia della terra non si possa rimanere equidistanti, sinceramente. Maria Grazia, appunto è appena uscito questo sondaggio dello Yediot Aronot, che tu saprai meglio di me che cos'è, e il 60% degli israeliani non si fida del presidente Obama e appunto il 55% sostiene che parteggia per i palestinesi, e l'equidistanza, Andrea Mancia, l'altro nostro ospite, potrebbe essere, secondo a suo parere, un principio pericoloso. Invece sembra proprio quella che, come dire, fortemente, intensamente, no, ha espresso Obama oggi. Che dice? Sì, dico anche che il sondaggio di Yediot Aharonot aggiunge anche altri numeri, uno soltanto ne vorrei ricordare, che il 67% degli israeliani oggi vuole due stati. Il problema è che non sanno come passare dalla politica attuale, che significa anche pagare prezzi altissimi in termini di uscita dai territori, a una pace che sia pace per tutti e due, con la P maiuscola per tutti e due. D'altra parte l'equidistanza per il presidente americano è assolutamente indispensabile, sia perché purtroppo non è vero che Israele sia il maggiore alleato degli americani in Medio Oriente. Il maggiore alleato dalla seconda guerra mondiale è l'Arabia Saudita, e dietro l'Arabia Saudita tutti i paesi del Golfo. Israele è un alleato importante, ma in un'altra categoria. Bisogna prendere atto di questo, e non solo per ragioni economiche legate al petrolio, ma per tutta una serie di complesse ragioni strategiche. Per garantire che gli Stati Uniti siano un attore vero e non quello che ha perso anni ed anni con Bush in modo anche così sciagurato, deve esserci un'equidistanza, anche perché ci sarà un momento in cui l'equidistanza, che ora a Israele pare un tradimento, sarà per Israele la più piena delle garanzie. Netanyahu, Andrea, si è chiuso nelle sue stanze di governo per elaborare una risposta, mi sembra di capire, il più compatta e comune possibile. Ci sono sono uscite delle indiscrezioni, delle prime dichiarazioni che però poi sono state in un certo senso ritirate o comunque definite non quelle ufficiali. In un certo senso Israele e il governo di Israele, il nuovo governo di Israele, sta provando ad elaborare una percorribilità, visto come si pongono gli interlocutori, no? come si dice, ma ci può riuscire secondo te? Io aspetterei la reazione ufficiale del governo israeliano prima di commentarla, anche perché appunto le prime indiscrezioni sono state subito smentite. Ritirate, sì. La reazione dei coloni è stata ovviamente molto, molto negativa. Adesso vedremo. Io perché sulla questione dei coloni poi insomma è stato forse il punto sul quale è stato più esplicito, no? Il posizionamento degli americani è stato davvero molto molto esplicito. Io capisco anche che di fronte a quel tipo di platea, ovviamente un fine retore come lui diciamo tende quasi naturalmente a immedesimarsi col pubblico che si trova di fronte, però oggettivamente io mi aspetto una reazione molto dura da parte del governo israeliano. Del resto le frizioni sotto traccia fra l'amministrazione Obama e il governo Netanyahu negli ultimi giorni sono diventate appunto qualcosa di un po' più grande che frizioni sotto traccia. Ecco, tra l'altro non è arrivato nel corso di questo discorso un annuncio su cui a un certo punto circolavano delle voci addirittura di una visita a sorpresa a Gaza di Obama, ma invece continua a latitare il viaggio in Israele del presidente americano. Un altro fattore che tanto più alla luce dei fatti e delle parole di oggi acquisisce un certo peso. Voglio dire, mi sembra sia palpabile, no, a questo punto, se non altro, un imbarazzo. Che dici? Sì, perché appunto il non essere andato in Israele, come pareva che avesse detto qualche tempo fa, è stato sicuramente vissuto dagli israeliani come una menomazione e anche un'umiliazione. È vero che va a Buchenwald, è vero che ha visto Netanyahu, è vero che ha visto anche Peres, ma tutto questo a Washington senza dare agli israeliani questa sorta di visita ad limina che li conforterebbe sopra ogni cosa. C'è un paio di aspetti che volevo... Mi dici una parola, Maria Grazia, una parola sul significato per Israele della tappa a Buchenwald di Obama? Sì, lui va a Buchenwald in duplice veste di presidente americano che è molto attento alla tragedia della Shoah, ma anche nella veste di nipote, perché pare che il nonno di Obama, il nonno bianco, sia stato tra i soldati americani che hanno liberato il campo di concentramento di Buchenwald nella primavera del 45. E questo mi porta anche a quello che volevo aggiungere. Nel discorso di Obama ricorre molte volte la parola Israele, ma ricorre forse ancora più volte la parola ebreo, ebraico, ha fatto anche una citazione del Talmud. Certo. Questo non è soltanto un discorso rivolto anche a Israele, ma è un discorso rivolto soprattutto a tutto il mondo ebraico, compreso il grande mondo ebraico americano oppure sparso per il mondo. Quindi è un discorso di politica medio orientale, ma anche di rapporti tra comunità e tra religioni che in un modo o in un altro sono presenti praticamente dovunque sul mondo, a parte la certo, Cina o poco più. Thank you. A un certo punto del discorso è partito addirittura un I love you, no? Avete sentito? We must address together as religious freedom. E questa è la quinta delle questioni sollevate da Barack Obama nel suo discorso. La libertà religiosa è una questione che ciascuno di noi deve decidere, con la quale si deve confrontare dentro se stessi, ha detto in sostanza Barack Obama, e a qualsiasi latitudine. L'esito che ne uscirà da questo confronto con il nostro pensiero, il cuore e la coscienza deve essere rispettato, e questa è la, a suo parere, la libertà religiosa. Andrea, stavo dicendo, a livello complessivo, un discorso che sappiamo aver avuto una genesi complicatissima, con andirivieni di draft dopo draft, con Obama che dice no, questo non è proprio come lo vorrei, mi devi dare una raddrizzatina. Pare che tutti i suoi grandi autori di discorsi considerino Barack Obama il migliore autore di discorsi. Peccato che ha altre cose da fare. Dammi un po' un giudizio tecnico da comunicatore su quanto abbiamo sentito. Beh, tecnicamente era un discorso confezionato davvero molto bene, secondo me. Io questa volta, diciamo, io faccio sempre l'esercizio di sentirlo, di vederlo e poi di leggerlo. Poi di rileggerlo. Certo. Anche riletto questa volta era un discorso di livello molto, molto alto, secondo me. Vedendolo, a me continua a dare fastidio, diciamo, il suo oscillare fra un teleprompter all'altro, ma diciamo che è una minuzia rispetto alle sue oggettive capacità di comunicazione, che sono davvero altissime. Vogliamo il teleprompter, il gobbo elettronico, sì. che lui ne ha uno a sinistra e uno a destra. Tende a girare il volto. Diciamo l'impressione che guardi la platea, in realtà. Senti, io ti voglio provocare su questo argomento, perché sì, ne discuto spesso dell'uso di Obama e del gobbo, ma non siamo alla fine un po' dei poveri moralisti a dire usa il gobbo, sarei buono pure io, e invece forse non dovremmo dire ma in fondo il gobbo è parte, come è parte del progetto, diciamo. Io personalmente non sarei assolutamente in grado di usare il teleprompter bene come lo fa Obama. Personalmente io preferisco, soprattutto in questo tipo di occasioni, discorsi a braccio, dove magari si perde qualcosina nell'esposizione poi del concetto preciso e raffinato, ma dove forse si intravede anche quel po' di passione che, secondo me, insomma, se è un messia che vuole cambiare il mondo, un minimo di passione, secondo me, dovrebbe pure metterci. Dunque, Maria Grazia, vorrei chiudere, abbiamo ancora un minuto con te, vorrei chiudere con l'aspetto Iran, che è stato toccato a più riprese e in diversi momenti del discorso da Obama, non solo nella parte del nucleare, ma anche nel suo tentativo di spiegare che non ci sono nemici definiti, soprattutto popoli nemici definiti per l'America. Anche qui uno scarto riguardo al passato. Maria Grazia. Sì, è anche una frase discusse veramente memorabile, quando ha detto che nel pieno della guerra fredda, cioè nel 1953, lui non ha citato la data, gli Stati Uniti hanno complottato contro l'Iran. Queste sono le scuse per il colpo di Stato contro Mossadegh nel 1953. E in questo senso credo che lui possa e voglia influenzare anche gli umori dell'elettorato, soprattutto l'elettorato molto giovane che voterà per la prima volta tra 8 giorni. E un atteggiamento molto, molto corretto e molto leale, e sempre parlando di Iran ma nel contesto più generale, vorrei sottolineare, riagganciandomi a quello che diceva poco fa l'altro vostro interlocutore, che questa è stata in molti passaggi una lezione universitaria fatta da un docente universitario di diritto costituzionale a una platea vastissima, e credo che oggi in Medio Oriente il diritto costituzionale sia una materia esplosiva, e questa è stata una lezione che probabilmente risuonerà negli animi di molti studenti, di molti giovani, anche negli anni a venire. Grazie, grazie a Maria Grazia Enardu, grazie ad Andrea Mancia che ci hanno accompagnato in questa valutazione, questo evento, la cui ammissione alla storia, così, da oggi è in palio. Ma poi lo volete sapere che ha fatto Barack Obama dopo tanto discorso davanti al mondo? Ha fatto quello che avremmo fatto noi tutti, è andato a vedere le piramidi, si è fatta una bella passeggiata di un'ora alle piramidi di Giza, è stata la più lunga visita ufficiale alle piramidi, 1 ora e 15, ha dichiarato un entusiasta capo delle antichità egiziane. Va in Germania, domani resterà un solo giorno, non arriverà fino a Berlino, e su questo c'è polemica e anche un certo scontento da parte della Merkel. Ci torniamo domani a Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Valeria Bernardi a Milano. Jefferson 2 radio24.it è la mail, su Facebook redazione Jefferson 2 o Jefferson 2 radio 24 express yourself, replica a mezzanotte, il podcast sul sito di Radio 24, la diretta dopo le 4, sempre qui dalla vostra Radio 24. Ci sentiamo. Yeah.